Il successo che a margine di una partecipatissima assemblea di abitanti del quartiere e delle realtà che compongono il comitato Mubasta, fatte anche di cittadini bolognesi che in altre zone della città vivono situazioni simili o lo stesso tipo di tensione, a margine di questa, a fronte di una militarizzazione impossibile del quartiere e di una assoluta assenza della presenza dei responsabili delle istituzioni cittadine, il comune come per il resto la questura e la prefettura, perché gli uomini che comandano i reparti o la Digos non sono i decisori, di fronte a una condizione di militarizzazione così forte c'è stata una risposta spontanea, popolare e soprattutto attuata da parte di giovanissimi, dentro la quale confluiscono tensioni, problemi, rabbia che si sono accumulate negli anni proprio per la completa assenza di soluzioni. Il comitato Mubasta era nato sì per contestare il museo delle bambine e dei bambini costruiti sul parco che è il centro della socialità, e aveva richiesto due cose: fermare il cantiere e aprire il dialogo, la consultazione vera con i cittadini, gli abitanti, le donne, gli uomini e i ragazzi del Pilastro. E questo da 3 mesi a questa parte non è mai stato accettato e non si è mai visto nessuno che venisse a misurare, al di là della posizione, qual era l'umore del quartiere. Aggiungo che la risposta che è stata data sul campo ieri sera è stata assolutamente conseguenze alla militarizzazione invocata dall'amministrazione comunale e attuata da chi gestisce l'ordine pubblico, che ha risposto con un lancio di lacrimogeni infernale, cariche, arresti, fermi per l'esattezza, poi rilasciati, e soprattutto ha aggassato un intero quartiere con gli abitanti dello stesso che chiedevano ai poliziotti, a chi comandava i reparti, di fermare questo attacco, anche perché delle case di mezzo quartiere non si respirava, con bambini spaventati, anziani in difficoltà, asmatici che non respiravano. Ma la preoccupazione era che rioccupaste il parco? Io francamente a questo punto non sono neanche più in grado di dire di che cosa si preoccupino, perché se a fronte della battuta delle pentole o della battuta sulle transenne la risposta è come se ci si trovasse di fronte all'assalto della Bastiglia, credo che ci sia confusione soprattutto nei vertici di chi ha governato o ha cercato di governare questa situazione, ed è evidente che non ci sia riuscito. Ora la responsabilità di questo è prima di tutto in capo a chi ha la responsabilità istituzionale. Non si può chiedere a un comitato o anche a gruppi di cittadini o anche all'opinione di un intero quartiere di fungere anche da elemento di controllo dell'ordine pubblico. I ruoli sono ribaltati, tanto più che, ripeto, sono 3 mesi che sulle questioni che noi abbiamo aperto, sia sul terreno della speculazione sul parco, sia sul terreno della questione sociale all'interno del quartiere, non viene data alcuna risposta, come se semplicemente non esistesse questo problema. Da una parte c'è l'assoluta cancellazione di un dato sociale, dall'altra c'è il trattare il dato sociale, che pure esiste indipendentemente dal tentativo di cancellarlo, come un problema di ordine pubblico. Il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi da ieri sera. Ecco, una battuta sulla partecipazione, perché insomma il comune sostiene di aver fatto questo percorso, però abbiamo visto negli ultimi giorni anche alcuni insegnanti delle scuole, se non sbaglio romagnoli, che mettono un po' in discussione quella versione. Come si è svolta? Ma allora, voglio fare un esempio. Quando metà degli anni 60 venne discusso cosa si doveva fare al Pilastro, quando gli abitanti si opposero all'edificazione della famosa stecca che avrebbe attraversato con cemento e costruzioni tutto il quartiere, venne aperta una consultazione da parte di un'amministrazione cittadina che è certo paternalista, ma aveva a cuore il dialogo con quegli abitanti che costituivano tra l'altro una grossa fetta del suo bacino elettorale. Oggi tutto questo non c'è stato e la consultazione, anziché avvenire con gli abitanti del quartiere, è avvenuta con un'operazione selettiva che peraltro viene attuata da molti anni. Io ho un progetto e chiamo 2 classi di scuola elementare. I risultati di questa specie di consultazione, e cioè ho chiesto ai bambini che cosa immaginavano nel parco e cosa immaginavano per un museo, viene considerata la consultazione, senza poi nemmeno tenere conto di quello che i ragazzi gli hanno chiesto, perché i ragazzi hanno chiesto che volevano gli alberi, volevano il parco, volevano i giochi, senza considerare che quel parco è il centro della socialità del quartiere, per i ragazzi, per gli anziani, per gli adulti, perché è da sempre il cuore pulsante del quartiere. Poi è stata avviata una consultazione con i famosi stakeholder, ad esempio con Ascom, che evidentemente non è una componente degli abitanti del quartiere che esprime quelle che sono le sue necessità, e dopodiché una serie di associazioni, posso citarle senza tema di smentite, come la Fattoria, come il DOM, come il Centro delle Associazioni Sportive, come l'Associazione Orti, alcune delle quali, ad esempio l'Associazione Orti e il DOM, hanno espresso la loro contrarietà o comunque sono uscite da questa specie di consultazione, altre invece hanno accettato, ma non rappresentano che una frazione minima degli abitanti del quartiere, seppur con un'opera meritoria fatta nel corso degli anni, ma non certo su questo terreno. Quindi la richiesta che facemmo il 26 di gennaio, quando entrammo in consiglio comunale interrompendolo, era proprio questo: fermate il cantiere e venite a sentire che cosa hanno da dire gli abitanti del quartiere, non solo il comitato Mubasta, che ha cercato di darsi una struttura per poter pressare, premere, interloquire con quelle che erano le istituzioni preposte. Venite a sentire qual è il polso prima e l'opinione poi degli abitanti stessi del quartiere. Questo non è stato fatto, questo ancor prima che la militarizzazione, e la militarizzazione a seguire, determinano le condizioni nelle quali ci troviamo oggi e determinano il fatto che la risposta che viene data a livello bolognese, assolutamente come si fa a livello di governo nazionale, seppure il segno politico dei governi sia differente, è una risposta poliziesca, militare, repressiva a qualunque cosa che sfugga alle decisioni, al controllo delle istituzioni. Non può funzionare così, e poi non ci si può lamentare se esplodono episodi e condizioni in cui la protesta viene anche attraversata da momenti di tensione, perché non è stato fatto niente per evitarlo, anzi è stato fatto tutto per produrla e farla esplodere. È come comprimere un gas in un contenitore di metallo e comprimerlo oltre la capacità del contenitore. Questo è il rischio. Noi lo vogliamo evitare, ma non è il nostro compito, è il compito delle istituzioni che non abbiamo mai visto.